Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Giulio Caperdoni a tenervi compagnia per quello che è il tardo pomeriggio o l'inizio della serata, dipende dai punti di vista, di Rock FM, tutti i giorni fra le 19 e le 20. Questa è Eclettica, con la sua musica, le sue scelte di film e di letture. Il tutto è disponibile anche in podcasting, tre indirizzi internet. Oltre a giulio@radiorockfm.com e a myspace.com/eclettica, che dovreste già conoscere, uno che state imparando a conoscere, che sarà il cordone ombelicale che verrà mantenuto anche in futuro, è www.rockfamily.it. In famiglia eravamo in cinque: mamma, papà, mio fratello, mia sorella e io, ultimo arrivato dopo 11 anni. Mio fratello medico chirurgo, mia sorella con due lauree, chimica pura e scienze naturali. Dicevano che era un genio. Una sua pubblicazione di studi fatti sul lago Tana, erano i tempi della guerra di Etiopia, dimostrò scientificamente che quelle alghe erano commestibili e quindi utilizzabili in caso di necessità. La Germania si interessò subito a questa scoperta, ma non so se in Italia la cosa abbia mai avuto qualche applicazione pratica. Ora, io che mi presentavo in famiglia pizzicando un contrabbasso, non ero forse quello che i miei genitori si sarebbero aspettati. Ma la guerra, che era lì per scoppiare, mi dette una mano. Il pezzo di carta me l'ero preso, ripagando papà di tutto quello che aveva speso per farmi studiare. Quindi mi sentivo con la coscienza a posto. La guerra finì per distrarli e io, in punta di piedi, feci il mio ingresso nel mondo del jazz e fui subito soprannominato l'avvocato del jazz. Questo era ancora Billie Holiday, Che palle, di Carlo Loffredo. Song about myself, about my friends, found something else to sing. Try and patch it up with tape and twine, babe, I just break everything that's mine. They wheeled out my casket, they said, boil it down your head. I said, oh shit, man, I ain't even dead. I won't be buried for a while. You know your friend who's a real yo-yo, and she's always crying and no one knows why. She's gonna be alright. Lost her best in a fuzzy fight. Wasn't even drunk, just a little tight last night. And they took her to the doctor, fix her heart and heal her head. She said, goddamn, I'm tired of being black. Go save somebody else's friend of mine. Drank something fine, choked to death the first time last night. He said, find that thing you really need. Calm down, daddy, you can't breathe, alright. Everyone will be there at the burial. Gonna go, maybe in your home, and find someone else. Modified. Stay here. Had in mind something a little more radical. What seems to be the problem? Death. Death. Well, I'm afraid that's a little out of my jurisdiction. I want more life, fucker. From everyone. aperto quest'oggi con Miles Benjamin Anthony Robinson, così sul disco come all'anagrafe. Bird Fed è il titolo del pezzo di cui ho abbondantemente parlato raccontandovi questo esordio settimana scorsa. Poi Grand Archives con Torn Blue Foam Coach per Sub Pop, ed ora invece un disco che esce per Stereogum, che non è un'etichetta ma è un sito che pubblica periodicamente, non sono andato a verificare la cadenza, penso sia più o meno annuale, un tributo ad un intero album. In passato l'hanno già fatto per gli R.E.M. come anche per i Radiohead, per esempio vi ricorderete qualche passaggio di cover di OK Computer. Ora è uscito un tributo all'album Post di Bjork, un tributo i cui contributori sono artisti che avete trovato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane all'interno delle playlist di Eclettica, come Atlas Sound, Final Fantasy, Evangelicals, Shoo Shoo, Bell. Bell, tra l'altro, rifà It's Oh So Quiet, che è la canzone che vi sto per trasmettere, ma non nella versione di Bell, l'artista di cui ci stiamo ascoltando da un po' di tempo a questa parte, estratti dal suo disco d'esordio, perché pur avendo una voce molto simile a quella di Bjork, secondo me non è riuscita a rendere al meglio questa canzone da Post. Infatti sono un po' deviato, forse io non sono andato a prendermi uno dei pezzi della playlist ufficiale della compilation, ma un alternate take, quindi è la It's Oh So Quiet nella versione dei No Age. Thank you. Passati gli 80 anni, che cosa me ne può fregare? La verità fa crescere in modo vertiginoso il numero dei nemici e io, in questo libretto, mi voglio levare lo sfizio di dirne tante di verità. Ne volete subito una? Ve la servo su un raffinato piatto d'argento di Tiffany. Non ho mai potuto sopportare la cantante Billie Holiday con quella sua vocetta miagolante da gatta in gennaio. Al solo sentire le prime note mi si raggrinzisce la pelle, lo stesso effetto del gesso che si spezza sulla lavagna. E in questo preciso momento il numero dei miei nemici fa un balzo in su, tipo Dow Jones quando Wall Street si inebria. Ma che noia! In tutte le enciclopedie del jazz, in tutte le riviste, la stessa foto, con l'immancabile gardenia appiccicata sulla chioma corvina come il foulard al collo della Pivetti. A proposito della Pivetti, si sarà resa conto di quanto le sia convenuto mostrare le gambe ballando sotto le stelle, piuttosto che scampanellare i deputati discoli di Montecitorio, o no? Aveva avuto auto di scorta e guardie del corpo, ma un applauso mai, da nessuno, eppure quelle gambe, sempre le stesse, stavano là. Oggi mi sono tolto questo macigno dallo stomaco e mi sento in pace con la coscienza, ma se avessi provato a farlo nel 50, in un circolo trasudante cultura, impegno e luoghi comuni, se avessi osato alzarmi in piedi proprio come Fantozzi, nel bel mezzo di un'audizione dei suoi dischi e dire chiaro e forte che per me la Billie Holiday era una boiata pazzesca, sarebbe stato come fare insinuazioni sconvenienti sulla Levi Montalcini, o peggio, dire di avere visto per certo Madre Teresa di Calcutta fare lo spogliarello in una bettola di Singapore. Bestemmie, bestemmie. Questo era ancora Billie Holiday, che palle, di Carlo Loffredo. Yeah. sex. The facts of life. To make an alteration in the evolvement of an organic life system is fatal. A coding sequence cannot be revised once it's been established. Why not? Because by the second day of incubation, any cells that have undergone reversion mutations give rise to revertant colonies like rats leaving a sinking ship. Then the ship sinks. What about EMS recombination? We've already tried it. Ethyl methane sulfonate is an alkylating agent and a potent mutagen. It created a virus so lethal the subject was dead before he left the table. Then a repressive protein that blocks the operating cells. Wouldn't obstruct replication, but it does give rise to an error in replication so that the newly formed DNA strand carries a mutation and you've got a virus again. But all of this is academic. You were made as well as we could make you. But not to last. The light that burns twice as bright burns half as long. And you have burned so very, very brightly, Roy. Look at you. You're the prodigal son. You're quite a prize. I've done questionable things. Also extraordinary things. Revel in your time. Nothing the god of biomechanics wouldn't let you in heaven for.